questa che voi la tipo la 510, però di prezzo costa molto cara, 236 euro, altezza 5,15 metri, però è una antenna. No, non capisco questa differenza, è un coso di vetrolite, ma non è il fibra di vetro, non stiamo parlando di chissà cosa. No, no, non è fibra di vetro, non è vetrolite, è un tubolare in PVC. Ok, ma una cosa diversa dal PVC che tu vedi normalmente, Roberto. Ok, no, io Gianfra, se vado a comprare l'antenna nuova non compro sicuramente quella da 3 metri, compro quella da 5 metri e 10 come ho sempre avuto. Però della Comet questa volta, non della Diamond, con tutto rispetto alla Diamond perché a me mi ha fatto 7-8 anni, però quando l'ho tolta praticamente l'antenna non ce n'era più. Non capivo come forse l'altezza mi aiutava, ma non capivo come faceva funzionare con l'antenna perché all'interno era completamente un ammasso di ossido, un ammasso di ossido completamente, cioè si è sbriciolata come poi i radiali non siamo manco riusciti a toglierli, li volevo recuperare, erano completamente mangiati, con tutto che era un acciaio inossidabile, praticamente il connettore di attacco era completamente un ammasso di ossido, sia interno che esterno. Vulcanizzata bene, perfetta, però non capisco come si sia ridotta in quelle condizioni. Siccome era sul sistema, io non ci potevo salire a toglierla e quindi l'ho lasciata fino a quando non sono andato via. Alla fine è andata così. Però, vabbè, se vai a prendere un'antenna, prendi 5,10 m, un'antenna buona, un'antenna che ti consente di fare tutto e che ti duri nel tempo. Ok, perché la X300 va bene, anche quella della Comet, quella da 3 metri, che non si chiama X300, c'è un altro nome, però le prestazioni sono inferiori a quella da 5,10 m. E tu, siccome non è che sei in questa grandissima posizione, perché sei in città, in mezzo ai palazzi, hai bisogno di guadagno sull'antenna, capite? GP6, che è? GP6, 3,10 m. Ma GP6, ma per favore, ma lascia perdere. Purtroppo un radioamatore che usa la GP6. Ma come? Ce l'ho io e non va bene, di più, è robustissima. Ma GP6 qual è? Il nome è praticamente, stiamo parlando sempre di VU, perché io conosco la GP6 della Diamond, mi pare che sia quella multibanda, che è una grandissima cagata di antenna. Comet GP6 era 3,10 m, poi viene la 5 metri, la GP9. Oh Claudio, allora Comet GP6N, perché c'ha l'N, è una 2x5 ottavi, il guadagno è in VHF 6,5 e in UHF 9,5, altezza 3,06 m, lunghezza radiale 49 cm e sono signori radiali. Il peso è 1,06 kg, il che ti dà già la consistenza di che antenna stiamo parlando. No, perdonatemi, non sapevo la sigla, Gianfranco e Claudio, perdonatemi, perché io conosco la GP6 della Diamond, che è una multibanda, è un'antenna che non ha fatto strada proprio, si è bloccata al momento in cui l'hanno venduta, veramente una grandissima stronzata di antenna, non ha niente da proprio di nulla, di nulla. Queste sono le sigle della Comet, non le conoscevo, perdonatemi. Sì, quella, la GP6 o la GP9 della Comet, che sono delle ottime antenne, perché io le conosco, le ho viste e sono veramente fatte molto molto bene. Ciao Claudio, come stai? Tutto bene? Tutto ok? 5-9 arrivi qua, nella mia nuova postazione, ottimo segnale. Buonasera a tutti. Ho fatto un piccolo intervento perché ho sentito il nome della mia antenna e quindi ho voluto ribattere un po'. Comunque la GP9 è 5 metri qualcosa e costa la bellezza di 250 euro, non è poco, no? Rispetto alla 51N della Diamond, quella costa 135, c'è una bella differenza. prezzo e di materiale soprattutto, di materiale è tutt'altra cosa la Comet. Non lo sapevo, la verità, mi chiedo scusa, ma non lo sapevo. Beh, è un costo eccessivo per un'antenna VU sicuramente, è un costo molto eccessivo. A quel punto lì, insomma, vabbè, poi la tasca è la tua, decidi tu, però sono due antenne favolose, sia la GP6 che la GP9, vanno molto bene. Perciò poi vedi tu cosa devi fare. Va bene, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Riprendi Luca e fai girare, dai, io un altro passaggio, poi chiudo e vado a cenare. Ma è GP6 o GP6, non ho capito. GP6. Golfo Papa. Adesso la sto cercando qua. Secondo te Gianfra, tu che sei pratico di zone, tu con la tua riesci ad attaccare Monterasio da casa tua? Guarda che adesso non te la faccio dare la licenza adesso, ci stai un po' mettendo in imbarazzo. Io sono una zona aperta, io vedo un altro pezzo anche cloache, quindi cosa vuoi che sia Monterasio? Monterasio sali su col gommino e lo senti e magari ci parli pure. No, non sono dei discorsi da fare, io ti posso dire il guadagno con l'antenna e di lì ti regoli, però capito, se fai un'antenna, guarda, superiore anche alla Comet, te la costruisci. Io ho fatto delle piccole direttive, sono di un metro e guadagno fuori tranquillamente la, guarda, ti dico, misurata su Montelimbara in diretta, Montelimbara mi arriva, che so, S5, S6, con la direttiva, questa piccola direttiva arriva a S9 tranquillamente. Quindi di cosa stiamo parlando? È un pezzo di filo elettrico, di tubo elettrico, di quelli volgari, con 5 pezzi d'alluminio. No, volevo dire Limbara, no Monterasio, scusa, ho sbagliato molto. Dipende se c'hai davanti Osilo o se sei libero dallo schermo che ti fa Osilo, ma io penso che ci arrivi tranquillamente. Poi, guarda, te l'ho detto, ma la situazione, io ho messo una direttiva, o meglio ne ho due, una direttiva piccolissima autocostruita per l'UHF, perché dovevo andare sul ponte che c'è digitale, e siccome quando stavano provando mi hanno detto che c'erano delle strane riflessioni a causa dell'antenna omnidirezionale, quindi sono passato a una piccola direttiva e la differenza è enorme. E questa però è solo monopanda UHF ovviamente. Poi c'è quest'altra, GP9 si chiama, aspetta, GP9N, comunque costa 159 euro la Comet, GP6, quella che dite voi. No, guarda, io ho la GP9, 8N, antenna, va anche sui 1200, l'altezza, no, l'altezza è bassa, è appena 3 metri neanche. Vedete, costa 207 euro, quindi fate un conto, guarda sempre l'altezza. Oh, vi devo salutare che io devo anche cenare ogni tanto, ci sentiamo, quindi roba, io lo metto quel PC in status normale, giusto per farti qualche lettera, qualche cosetta piccola, e poi te ne procuri uno serio. Ok? Ega, grazie per il momento. Comunque, no, ho mandato un messaggio, se mi risponde vediamo un po'. E vediamo. Poi c'era l'amico Claudio, l'altro. Claudio, se non sbaglio, il portatore, si confermi? Sì, ciao Roberto. Sì, ripeto, la Comet è ottima, è veramente ottima, è come materiale, è superiore alla Diamond. E purtroppo la GP9 costicchia, viene intorno alle 2,50, con 2,50 quasi quasi ti fai una direttiva IACI con quel prezzo lì, magari senza rotore, però quasi quasi ce la fai a prenderla. Comunque infatti sono due, per cui se locali e qualche ponte vicino la GP6 ce n'è per i cani, se poi ti vuoi divertire in diretta, allora la GP9 è d'obbligo. La GP6 qua la stanno vendendo dalla Comet, GP6N, 159 euro, la GP9, aspetta se c'è il prezzo. È caruccia, c'è la concorrente della Diamond che è uguale 5 metri, mi sembra che sia la 51N o roba leggera, ma costa la metà, 135 euro la prendi. La 510, sì, infatti l'ho vista, dalla Diamond costa su 130 euro, seppur la vuoi anche marchiata diversa costa anche meno. Però ripeto, se ti vuoi divertire in diretta ci vuole almeno la 5 metri. Infatti tutti mi stavano consigliando la 510, dice, poi tutti, adesso Claudio Giafranco mi dicono che è delicata, vabbè, che non si rompe, si butta via, cosa vuoi dire? Io mi sono chiamato, fa troncandosi in due, dipende da dove l'hai installata e come l'hai installata. La GP9 non è delicata, è un antennone, bello robusto. La Diamond non te lo so dire perché non l'ho mai vista, la verità non l'ho vista. La 300 sì. Io avevo una piccolina della Diamond Bibanda, adesso non mi ricordo, ma piccolina sarà 1,5 metri, adesso non so che cosa c'è, ma va da Claudio, però è montata male, non rende niente, è zero assoluto quante. Sì, vanno bene per il traffico locale così. Secondo dove sei, se vuoi agganciare qualche ponte un po' più lontano non ce la fai, no? No, io già sono in alto, io sono alla parte alta di Sassa, sono vicino allo stadio, di lì a Puglia è aperto, davanti non c'ho niente, ma un po' dietro alle mie spalle c'è qualcosina. Ok. Ma io ho visto mio figlio quando era in questo sopra i ponti, andava benissimo, andava benissimo, adesso non c'è più qua. Poi ho visto un'altra particolare che è un quadrato, però con i vertici verso l'alto, sembrava una di quelle vecchie radio, di quelle antenne per le radio a galena, e non è grandissima, mi sembra sia intorno ai 3 metri di coso, di come si chiama, chiamiamolo diametro, però non è diametro, di lunghezza tra un vertice e l'altro, e c'ha caricata internamente. Ho visto le prestazioni sono simili a un'antenna verticale di quelle classiche. Ce ne sono tante, ce ne sono diverse, comunque è l'unica la mela direttiva, e non sbagli proprio. Comunque con questo passaggio ne approfitto a salutarvi perché è pronto il carico, mi stanno chiamando. Saluto a tutti nella ruota e a risentirci alle prossime. Ciao ciao. Ciao Claudio, ben sentito, anche io sono in attesa che mi chiamo. Comunque c'è un ultimo segnale, superi 9,10, non so quanto stai tirando sotto e che antenna c'è, comunque superi 9,10 abbondantemente. Quanto va uno? E tu dammi un rapporto così ti lascio andare dalle tue parti, come arrivo? Non ti ho capito. Prima di andare via dammi un rapporto di segnale, se è simile al mio o più basso. Allora, 9 con picchi positivi, radio 5, ottima, radio buona. Ok, ti ringrazio, dai. Ok, buona carica, buon tutorial, se capita ci risentiremo alle prossime. Vediamo se nel frattempo c'è qualche rimasto, qualcuno su 10, avanti su 10 che è rimasto. Tu, se stai parlando ti sento basso in mezzo al QRM, se Santiago sì, qua non capisco quello che dici, non so se tu mi ascolti. Zio Pippo. No, capito, Dio Pippo. Anche uno c'è su ticchetto, questo è il continente Africa. Ma di quasi furgia a ganna, vai. Luca, e va a Burutu sabato, che facciamo? A Burutu, tutto rotto. Oh, io mi sono rimasto adesso. Ma va, mi pigiame, neanche tu. Io ho dormito la mattina, perché devo finire un lavoro, e oggi l'ho finito. Finito verso le 11 e mezza stamattina, dalle 9. Le 11 e mezza ho finito tutto. Andava sì, andà a farsi forruggiare a ganna, chi su, vai. Hai cazzo una campana, Sono di robe che ben che sono. Una campana senza le campane. Cosa sa? Che ti preparato le crepe. Mi ha preparato le crepe, ne ha già mangiato due o tre, ne ha già mangiato. Le crepes? Ea. La Nutella. Allora sto un po' in mezzo all'anchi. Dio. No, gli ho messo un po'. Non c'era un altro, non c'era e gli abbiamo messo il formaggio. Ma le crepes si fa con la Nutella. Ah mamma, a me mi fa schifo la Nutella. Cazzo schifo, con la verità. Allora ho preso un baratto da 700 grammi in estate. Ho detto finita questa qua, ho detto finita l'estate, sempre la portavo al mare, buona ridere, nelle sferantine. Non l'ho più mangiato, non mi interessa, no? E poi cazzo c'è, fatti ingrassare, se vuoi ingrassare neanche tu, fai usci. Io ho preso il mutante 77, sono arrivato anche 76, cazzo 82 peso. Mira, la bella ti si vede più la cogliuppa a me. E la bella ti si vede più la cogliuppa. E te, chi sei botte? Sotto zero, vai, no, che... No, dico anche San Luigi, mi... Con i cozzi, ti faccio mettere lì alla corrida. Ah, la bando, no. Cazzo, sono i primi, sono fatti, boh. Ah, faccio furugiare la ganna, vai. Oi, oi, oi. Oggi ci siamo andati in diverse occasioni, quest'anno no. Ma l'hanno fatto pure. A chi? La corrida abbiamo preso i biglietti, abbiamo preso più di una volta. E anche noi siamo andati 2 o 3 anni fa, forse non mi ricordo. Che hanno rovinato tutto il casino. Via. Esatto. Quando non c'è tutto questo casino. Ma chi è vaccinato può continuare la vita come sta continuando. Ma adesso ho prenotato la terza dose. Sto aspettando che mi chiamano. 10, 71, sono i vari mari, 15, 20, 25, 29 io, imponente. Mi sto avvicinando ai 900 euro in monete. E portale qua. Vai. 250 euro, va. E ritiro il mixer. Ritiro la bestia, ritiro. Più quelli che ti ho mandato adesso. Però è vero, non bisogna dare moneta. Che non è giusto rimanere, credo, che si rimangano i rasti. Adesso sto conservando, se riesco a prendermi, adesso vediamo, una macchinetta piccola. Ah, tra te ne varia. A voi c'è i nomi che ne c'è roba. Io adesso 1.000 euro, insomma. Ne compro roba. Aspetta, ti mando cosa voglio prendere, cazzo, ti mando. Se ti piace, sguardata, può essere bello. Ti è arrivato? Sì, ho visto. Grazie, te ne fai? Ma... cosa ne fai? Che numero di canale c'ha qua? Tu dove dici di capo? Io c'è il capo, sai come tutti gli altri. Devo andare da un amico mio a fare il corso. Ah, ma prendere uno semplice più grande del tuo. Ma chi sei professionale, professionale? Chi sei quel contrappalle? Picchia, sei razza di buono di marino. Più... no? Come si fa? Ah, a me questi mani non mi piace. Chi ti sono da concerto? Tanto, no, da fa karaoke, no, musica, che fai tu? Infatti, ma il cinghizzo vi pone di sordi, vi pone, se no non dici di chi sono. Eh beh, quello già è vero, ci vogliono gli sordi, vedi te, che te lo sconsiglio, perché a parte che avevo cazzo, devi chiamare la carta cermelli, devi chiamare a regarti l'uno dei luoghi, è pesante. Infatti ti ho detto, per uscire è quello da casa, il posto ce l'ho già, lo bonghino che da reddu, ce l'ho già qua, per uscire è quello da casa, e bagamme, non esci da casa chi sono. Vabbè, ma come facciamo per di gente, Claudio, prima di andare via da Maria, tua madre mi accompagna adesso, così, se poi ti abbiuchi, Maria te ne basta la gara accompagnarmi. Sono arrivato, ho già atteso, non lo benissimo. Poi sapete, non so se è risolto, come sai che domani mattina se mi chiama, devo con la mano io. Poi ci sei andato, no? Ho detto che voleva andare, purtroppo io ho degli orari strani. Scappa, la guardate insieme. È meglio, ma sta piovendo, sta. Ah, boh. Lascia vedere. Oh, oh, prenotazione ce li ho a uno. Uno e uno. Uno e uno adesso sto. E io lo sento perché ti sono attento, sta piovendo. A uno e tre nella strada. Sono andato un po' così. Ho letto un sito, sì, vabbè, nei gruppi, da. Che un'antenna un po' difficile da... buttare giù le stazionarie. Ma non è vero, vedi che non ne comprende nulla. E allora se non è vero ti aiuto a sapere. No, vabbè, vai tu che già ci riesci, però già ho visto quell'antenna, l'antenna mia è sistemata diversamente. Tanto io, è proprio sicuro, ma tanto sono sicuro che non ne cavemmo azzura, capito? Non ne cavemmo azzura. Che pega, qua. Non si vede. No, sì. No. Vediamo, va, domani. Domani si vedrà. Ma già mi ha detto Saverio che non c'aveva il coso, non c'aveva l'affare, e già chissà che tipo di antenna gli hanno dato, mamma mia, ho visto altra cosa e non andava bene, il mio c'ha lo stub suo, l'ho regolato con lo stub suo. Non c'aveva lo stub suo? Ma cosa? Qualche cosa? Oh, e chissà cosa l'hanno dato, ma ti faccio vedere la differenza. Non lo so, non insisto, però io non me lo voglio dare, non ci sono problemi, siamo apposta per quello, però una mano che ha bisogno, capito? Aumenta a 2 a leva. Ragazzi, 1,50. No, leva i nocchi, io la sento l'acqua. Tu la senti perché c'hai il coso? Bah, la mansarda. Non t'ho detto. Non mi dice in mansarda. Io lo so qui. Sto qua per 6 kW. Intanto sono sto qua per tanto, 6 kW. Nel 2010. Presente anche il telecomando. 500 euro. Ah, mi dicono così 6 kW, ma non è che consuma 6 kW di corrente, perché produce 6 kW. Questi qua nella casa, no? Ma già questi qua ti danno il kilowattaggio della stufa, capito? Guarda, io stavo aspettando che mi chiamasse il dentista, tu. Il tubo. sa che devo essere fatto in tini pa' un cazzo per fare l'altro lavoro. Il 12 gennaio devo andare. Addirittura. Quando c'è la pigliatina, ma su chi vengare. Pagate puro coglione. Sono civile, non brucio nessuno, sono una persona onesta, perché invece camminate salta, poi capito. E vabbè, ci vuole avranno avuto tutte esperienze. Allora voi ti dica, già sono ladri chi c'è. Sono cari, so. Grazie, altro che. Sono carissimi, e vabbè, comunque sto iniziando a mangiare come prima. No, assai, però. Se ti posso vedere i figli che vale, ti pone le mani in capo, cosa che tu te lo sogni in tutta la vita. Beh, cazzo non lo so. Cioè, a me la spesa mia è 8.000 euro, più di 8.000 euro. Ma a me sono una massa di ladri, boh. In cui mi li abbiamo già andati? Yes, che cazzo fa? Per furruggiare una bocca, ma fa una dentiera, avevo così assai. Ma non si comune di dentiera, no? Tu. Ma cavolo, lui, sempre sono cifre astronomiche. La dentiera costa 1.700 euro, sotto e sopra. Lo so, però cavolo, i denti, cioè, ti rimangono così, cazzo, ma guarda che c'hanno un guadagno pazzesco loro, me. Ti sei potuto andare io a casa di uno di chi c'è, fa una vita, ha paura, fa. E tu va a farti chi si di nati, devi crepare la china. Lo so. Lo so. Troppo un casino. È un casino, Antonio. Fa furia, Prima penso a me da bui, quando avrò che ne più, allora penso a altri cosi. Non posso mi sala ad altro. Potevo anche investirti quei soldi a qualcosa, e comunque sappiamo vendere, però è aumentato di nuovo. E così andò. Potevo anche investirli, ma... Però... Non era possibile, da. Però un'altra cosa è fatta, poi quando sarà che avrò un altro bruzzoletto, là potrò investire. Pigliate pure una macchina, va, se ce la fai. Che è meglio. Infatti. Mi stavo prendendo un cellulare della Oppo. 12 giga di RAM. 512 di memoria, 512 giga di memoria, fate un hard disk del computer. Buono. 300 euro. Ma costa così al mercato? Fate che guarda per te. Oppure che c'è niente, piglia a fare un guru. Allora, nuovo costa. Aspetta. 7,50. Io ne costava 800 5G, io gira me 5G e 512 comunque, se volessi. No, già va bene. Poi c'è usato su eBay smart 5G, 12 giga di RAM e 512 di ROM, 290 euro, spedizione gratis. Però un pezzo di dischetto da lì, mi fa vedere. Sì, 512 memoria, 112 giga di RAM, la ROM. È bello, sì. Passato qui sì, la canna è forruggiata. Stasera un attimino abbia di dire una cosa. Ha detto la mia. E allora? E tra bancone? E allora? Che? Vuol dire se la vuoi forruggiare? Cazzo, guascio come dice Bizzino, non l'ho mai visto. Ma ci pigliava una passola che ne ha bisogno, non pigliava niente di fuori. Ma infatti. Puoi pigliare a te. Sì, ma rimulavi su travaglio e travagliavi in chili. Mi ha già fatto comprendere un faggio di borse. Che tu non hai ditti. È guascio. Ma non funziona così la cosa, perché io l'avrei fatto girare diversamente, capito? La mattina avrei fatto le colazioni con le paste e con tutto. Ma ti va la clientela, capito? Ma la bolibacca non li vendi, se lo cavagliati di tu. Carta ben grassa quella di più altro. Mi manca per ingrassare. Se mi mangiavo pure tu mi dici. Oh, ma li fatto male, pure oggi mullati. Non c'è esagerato. No, praticamente li avrei fatto da bar io. Capito, la mattina l'avrei aperto io presto e tutti i soci avrei sparso la voce e giunti in chimi. Chi si avrebbe preso il cappuccino o la pancia, cioè, l'avrei aperto io presto. Non ci ho più visti Alessandro Rubizzini in chimi. Cara barato. Non l'abbiamo visto. Ma brigata vedi? Non lo so, boh. La salva. Casino, e domani se vuoi divenire, noi siamo Romonti. Si fa un treno. E qui della fianca, un cavo ha tirato pochissimo. Va. Dovete venire, Andrew. Se fate troppo le mani, facciamo noi a prenderlo. Di camarina. Facciamo boh, vedi tu. Santo caffè. Boh, io non ho già compreso quei cartoni fatti nei chissi. Egypt King. Ma ragazzi, è una cosa, a Gianfranco Mano. Da Virgilio Dinaroso. Dinaroso. E tu? Su Cinghiso. No. Ragazzi, che lei ha bello. No, ci credo. Una mucca, ragazzi, che c'è lei. No, ci credo. Il figlio. Che to, com'è? E gli arendi, se tieni con un attrezzo e ti rendi. Ma dimmi tu che... Cazzo, non l'hanno allagato con Grignarma. Boh. Ma pure c'è Sareggio con Gantani. E qualcuna sì, ma è musica spagnola, capito? Fanno un po' di tutto, ma sono bravi, La. Ciao G, buonasera. Buonasera a tutti, ciao amico mio di Sassari. Ehi Eugenio, ciao lo squaccio, t'avevo sentito, dai. Le sta facendo partorire. Si è allucinante, guarda. Che? Sono voci siete. Tanto male, sì. Ma lui lo sarà che si caccia qui una di alma chiara, no? Ehi, a loro, sì. Già compreso. Piagone al massimo, so. Ragazzi, stanotte spegnete tutto, staccate tutto, che sta arrivando un bel temporale di quelli massicci, eh? Già la gente su che la pendieva. E poi sento le scariche pure. Ha messo brutto tempo. Ma è agitato c'era oggi? Ragazzi, il mare è super piatto, però sta arrivando una brutta bufera da parte di Alghero, verso di qua. E poi sarà arrivato tutti gli scaldamandru, cazzo, in oggi. L'Algherese va lo scaldamandru, va. Ma lei non ci arriva, però siamo in allerta. Il porto l'hanno chiuso. L'hanno chiuso oggi alle 8:30, l'ha fatto... in tempo la Tirrenia uscì a chiudere il porto, allerta meteo. Già lo so, già. E stanotte cuzzureggia sicuramente. Ebbene sì, io sono entrato a salutarvi. QRT per me che me ne vado a masticare. Che mia moglie mi ha fatto la pasta asciutta, mi disse, sono inviati in gruppo di Cerigliola, bulla glielo io, cosa gli dà, è piccante, ui mamma. Andava, ciao G, ce la risentiamo. Ciao ragazzi, va, ci sentiamo domani, se coincide, che anche domani c'è un tornaccio. Ciao a tutti, ciao, buonanotte a tutti e sognatemi, vestito, nudo, come vi piace. Ciao amico mio, buonanotte, alla prossima, gaffa. Ehi, ciao Luca, anche per te sognami, sognami nudo, vestito, in moto, come vuoi, ma sognami, ciao. Ello. Ma dopo ti dico una cosa, ti dico. Te lo dico al telefono, Lu. Dico una cosa che è successa, che mi hanno detto. Dimmi, scrivi là. Buonanotte a tutti!